Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, chiaramente le attese nomine, già se ne è occupato anche Oscar Giannino pochi minuti fa, le attese nomine per le principali aziende e i gruppi di questo paese, sono partecipate allo Stato ma sono anche come capitalizzazione, come peso, Eni soprattutto, la numero uno in questo paese, ma vale anche per Enel, vale anche per Finmeccanica. Dicevo, come molti di voi sanno già, l'annuncio arriverà dopo la chiusura dei mercati, quindi almeno tra 20 minuti. In realtà i tempi non sono certi, così come continua la rida di voci, c'è chi vede in pole position ormai chiaramente Claudio Descalzi, attualmente direttore generale esplorazione dell'Eni, al posto di Paolo Scaroni, come presidente al posto di Giuseppe Recchi. C'è chi ha citato Elisabetta Belloni, direttore generale della Farnesina, Leonardo Maugeri, ex numero 3 dell'Eni, a un certo momento responsabile di tutta la parte esplorazioni e studio di nuove esplorazioni, attualmente insegna ad Harvard. Altri citano Giampiero Massolo, che è direttore generale del Dipartimento di Informazione e Sicurezza, ma è circolato anche il nome di Emma Marcegaglia e di Paola Severino. Sull'Enel, al posto di Fulvio Conti, si cita o Andrea Mangoni, amministratore delegato di Sorgenio, Francesco Staracci, amministratore delegato di Enel Green Power. Come presidente, anche qui circolato il nome di Patrizia Grieco, numero uno di Olivetti, o di Emma Marcegaglia. Terna, al posto di Flavio Cattaneo, Matteo Del Fante o Aldo Chiarini. Alla presidenza, possibile conferma di Luigi Roto, oppure anche qui il nome di Emma Marcegaglia e Patrizia Greco. Già capite? E poi concludo con Finmeccanica, al posto di Alessandro Pansa o Mauro Moretti, quindi Ferrovie dello Stato, o Giuseppe Giordo o Francesco Caio. Come capite, siamo ancora nel ventaglio delle possibilità. Quello che è certo è che non verranno riconfermati Scaroni, a questo punto, e Conti, per la logica dei tre mandati, mentre Pansa è appena arrivato in quel ruolo. E le dichiarazioni di Palazzo Chigi, Graziano Del Rio, ha sottolineato che gli italiani saranno assolutamente sorpresi. Faremo scelte di discontinuità ma senza disperdere le energie migliori già presenti, perché sono gruppi molto delicati in cui le competenze contano, anche se poi l'amministratore delegato si avvale di tutto lo staff di dirigenti con specifica competenza e formazione sui vari settori. Però attenzione, le competenze contano sempre, a maggior ragione quando guidi dei numeri uno nel loro settore, e quindi petrolio e gas da un lato, elettricità e gas dall'altro, e aerospazio e difesa nel terzo caso. Di questo parleremo in diretta, se i nomi arriveranno in diretta, e se no vi aggiornerà il GR24. Altro tema di giornata riguarda la Popolare di Milano, sta perdendo l'8,40% adesso. La Consob ha sospeso oggi e domani, ha vietato, scusatemi, oggi e domani le vendite allo scoperto. Perché? Perché nel fine settimana, contrariamente alle attese, contrariamente a tutte le attese, è stata bocciata la modifica della governance, quindi dei meccanismi, diciamo, di potere interni alla Popolare di Milano, che è una banca un po' strana, nel senso che i sindacati pesano tantissimo, e la modifica doveva sostanzialmente dare più peso agli investitori istituzionali pur mantenendo la forma cooperativa, godeva il favore della Banca d'Italia. Sembrava che fosse passata, tant'è che il presidente del Consiglio di Sorveglianza, Piero Giarda, si era spinto a dire che la proposta era stata approvata, poi contando i voti ci si è resi conto che non si è arrivati ai 2/3, seppur di poco. 2577 presenti, il quorum era 1689 voti per arrivare ai 2/3, ne hanno presi solo 1565. Da lì il calo fortissimo del titolo, sostanzialmente gli investitori giudicano non positivo il segnale che è arrivato dalla banca, che resta poco contendibile, questo è il ragionamento che viene fatto. Ancora Monte dei Paschi meno 5,32%, pesante il calo anche lì, ne parleremo. Popolare Emilia Romagna meno 3,80%, sono insistenti le voci in questo caso di un prossimo aumento di capitale da 600-700 milioni di euro. Continuo con ST Microelectronics, -3,12, Azimut, -2,30, come Finmeccanica, World Duty Free, -2,15, Autogrill, -1,60, Ubibank, -1,40, Atlantia, -1,20, Buzzi Unici, -1,1%. Fronte opposto invece molto bene, Tod's +4,70%, Ferragamo +3,60, Moncler +1,90, Lusso oggi si riprende tutto, Luxottica +1,30 e poi Saipem +2,80, Enel Green Power +2%, Eni, visto che parlavamo delle partecipate dello Stato, +1,70, Enel +1,16%, e Unicredit. Devo dire unica tra le banche, assieme a Mediobanca, a guadagnare oggi +1%, Mediobanca invece +0,60%. E parleremo in apertura anche della vicenda Alitalia Etihad, ma non perché vi siano novità oggi rispetto al piano illustrato nel fine settimana, ma perché quello che è successo nel fine settimana è che il governatore o presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha detto: se il piano di Etihad e quindi di Abu Dhabi prevede un ridimensionamento, come è apparso dall'indicazione di stampa, così forte di Malpensa, non sono interessato come Regione Lombardia a entrare nella SEA, la società che gestisce gli aeroporti sia di Malpensa che di Linate. Oggi replica del sindaco Pisapia, azionista di maggioranza in SEA, sindaco di Milano: se Maroni ci vuole sfilare ce ne faremo una ragione. Avremo il nostro ospite lo stesso presidente della Regione Lombardia, Maroni, perché il tema riguarda tutta l'organizzazione aeroportuale anche della Lombardia, non solo di Malpensa, in attesa di avere notizie da parte dell'incontro che doveva esserci oggi tra Alitalia e i sindacati. Per quello che riguarda infine Michieletta dell'euro, l'euro a quota 1,38,12, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Ultimo tema che tratteremo nella seconda ora del programma: l'ottimo andamento di tutte le aste dei titoli di Stato italiani. Oggi era la volta del famoso BTP Italia, boom di richieste, BTP Italia ha indicizzato l'inflazione italiana, a scadenza 2020 ha raccolto finora 6 miliardi e 300 milioni di richieste in una giornata, quella di oggi, quella di domani, dedicata ai risparmiatori, al retail come si dice, e già domani alle 13 il Tesoro, visto l'altissimo numero di richieste, potrebbe confermare la chiusura anticipata del collocamento. Giovedì invece vi sarà la riserva, la finestra per gli acquisti degli investitori professionali. Nel giorno in cui, e partiamo con la notizia in breve, si conferma che l'inflazione italiana è ai minimi dal 2009. L'inflazione conferma a marzo un andamento piatto, praticamente quasi inesistente, +0,4%, siamo ai minimi come crescita dei prezzi al consumo dal 2009, pensate che la crescita dei prezzi si è dimezzata negli ultimi 5 mesi. Venezia resta sempre in deflazione, quindi prezzi in calo, -0,2%, Roma registra prezzi fermi. E tra le città che mostrano invece crescite più alte figurano Bolzano +1,1, Cagliari +0,8, Palermo e Genova +0,6%. Mi chiedete a quanto monti complessivamente il collocamento BTP Italia. Non c'è un ammontare prefissato, per cui voglio dire, il governo può già da domani appunto interrompere la vendita ai retail, agli investitori privati, ai risparmiatori. Vedo alcuni messaggi sui nuovi nomi: il più pulito avrà la rogna, amici degli amici, conflitti di interessi a IOSA. Ma insomma, o lei ha delle informazioni che a noi non risultano, ma perché dire così? Non è detto. I nomi che sono circolati, amici degli amici, in che senso? Adesso a me non me ne frega nulla, non tifo per nessuno. Ma fosse, poniamo Leni, visto che il nome più forte è quello di Descalzi, fosse Descalzi è uno che ha sempre lavorato a Leni, viene da lì, non si è mai mosso, non mi risulta che sia amico degli amici, nel senso, al di là dei rapporti istituzionali che può avere uno che ricopre il posto di direttore generale di esplorazione in uno dei principali gruppi petroliferi italiani e che, voglio dire, avrà rapporti anche istituzionali. Faccio notare che l'ENI in molti paesi fa più politica estera di quanto non faccia la Farnesina. Attenzione, luoghi comuni, perché su questo si casca tutti. Poi uno deve conoscere anche le cose, per cui sapere che, per esempio, che poi sia piaciuto o no la politica estera che ha fatto l'ENI in questi anni su indicazione anche dei governi è un altro discorso, ma che l'ENI faccia politica estera e sia uno dei pochi gioielli di grandi dimensioni che è rimasto in questo paese, non ci sono dubbi. E gioielli, voglio dire, con competenze, con formazione, con know-how, con investimenti e quant'altro. Su. Allora, per quello che riguarda invece altre notizie, andiamo avanti rapidamente. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. Facebook si prepara a entrare nel mercato dei servizi finanziari, quindi non solo più un luogo in cui scambiarsi opinioni, foto, notizie, delle volte anche in cui umiliare le persone. La notizia è stata arrivata dal Financial Times, che cita fonti vicino alla trattativa che coinvolgerebbe appunto Facebook per permettere ai suoi utenti di fare rimesse di denaro e pagamenti sulla piattaforma. Gli enti regolatori a cui farebbe riferimento sono quelli irlandesi, mancherebbe solo una settimana al via libera. Occorre l'autorizzazione della Banca Centrale Irlandese per rendere il servizio legale in tutta Europa attraverso un processo chiamato passporting. E poi il gruppo Menlo Park potrebbe siglare accordi con 3 start-up di Londra che offrono servizi di trasferimento internazionale di denaro online e attraverso lo smartphone. Questo dovrebbe essere l'accordo di Facebook appunto con i 3 gruppi TransferWise, Money Technologies e Azimo. Dall'America arriva la notizia che l'utile di Citigroup è salito a 3 miliardi 940 milioni di dollari, meglio delle attese, i profitti aumentano del 3,5% nel primo trimestre. Dicevo, passiamo all'Europa, dove è arrivato il sì definitivo dall'Europa per il carcere per le frodi sui mercati azionari. 4 anni per l'accusa di insider trading o di quindi l'utilizzo di informazioni riservate per speculare in borsa o di manipolazione degli indici di borsa. Passiamo all'Italia, il debito pubblico vola a un nuovo massimo a febbraio 2107,2 miliardi, da gennaio è aumentato di 17 miliardi e mezzo, le entrate sono leggermente aumentate a 27 miliardi. Ricordo però che più che il valore assoluto del debito pubblico e del deficit, quello che importa all'Europa, importa ai mercati, è il rapporto col PIL. Ecco perché si dice che finché continua a deprimere la crescita economica non ne uscirai mai da questo cul-de-sac, perché tanto se il denominatore è il PIL e il PIL si riduce o non cresce, il tuo debito sarà sempre insostenibile, mentre potresti reggere un debito come questo o un deficit anche più alto a livello nominale di quello attuale se tu avessi un denominatore, un PIL più grande. E la logica di continuare a lavorare solo sul numeratore, cioè ridurre il deficit e il debito senza pensare al denominatore, alla crescita economica, è una logica da pazzi, grazie all'impostazione tedesca della gestione dell'area euro. Non me ne frega nulla se l'ho già detto 1000 volte, sapete che è così e sapete come la pensiamo. E voglio dire, il dato drammatico del crollo dei consumi, prendete qualunque grafico, vedete che i consumi sono crollati letteralmente nel periodo 2012-2013, quindi diciamo periodo del cosiddetto commissariamento dell'Italia da parte di Bruxelles, della BCE, ma anche della Bundesbank e di Berlino. Consumi mai così bassi da quando li misuriamo, crollo del 5% nei consumi, inflazione che anche il dato di oggi conferma essere praticamente a zero. È impossibile, voglio dire, potremmo avere anche un deficit di un euro, ma se il PIL è zero, sfondi, o è 0,1, sfondi qualunque parametro. Altra cosa è avere un PIL che cresce, puoi reggere anche un deficit più alto. Io non so più cosa si debba dire ai teorici del rigore senza crescita che stanno appunto in quel centro d'Europa che va tra Amsterdam, Berlino, Francoforte e Bruxelles. Ancora, per quello che riguarda l'ENIT, organismo che più volte abbiamo criticato, ma non è in questo caso oggetto di critica, l'ENIT oggi stima che l'Italia sarà la meta privilegiata da parte dei turisti stranieri per la Pasqua e il ponte lungo del 1° maggio, quindi non grazie al ruolo dell'ENIT, questo sicuro, grazie al calendario, va bene. Questo è uno degli elementi emersi del monitoraggio effettuato dall'Agenzia Nazionale del Turismo ENIT presso i principali tour operator dei mercati europei ed oltreoceano in vista delle prossime vacanze pasquali. Nel frattempo, restiamo sull'Italia, si è stimato che costino 1 miliardo di euro, più o meno quanto si vorrebbe tagliare con la spending review nella sanità, le truffe perpetrate ogni anno a danno del sistema sanitario nazionale, che si chiamano falsi ricoveri, interventi di chirurgia estetica messi a rimborso come operazioni per i tumori, uso smisurato soprattutto in alcune regioni del sud dei parti cesarei e in alcuni ospedali dei parti cesarei, referti truccati, medici che operano come privati ma utilizzano macchinari diagnostici pubblici, appalti truccati e esenzioni dal ticket ingiustificate assieme a prezzi dei farmaci maggiorati. Il malcostume, che in realtà più che malcostume potremmo chiamare furto, secondo la Guardia di Finanza è possibile grazie all'operato di 700 funzionari del sistema sanitario pubblico infedeli o conniventi con le case farmaceutiche, con le strutture private, con le imprese, con i pazienti. E la Corte dei Conti segnala che non va molto meglio nel 2014. Nei primi mesi, cioè a fine febbraio, erano già arrivate alla Corte dei Conti segnalazioni per danni da 150 milioni di euro. Allora io chiedo una cosa, probabilmente sarò un po' naif, ma visto che la Guardia di Finanza segnala che sono 700, cioè dice il numero, i funzionari della pubblica amministrazione conniventi, perché non provvedere al licenziamento di questi 700, alla sospensione e poi al licenziamento? Basta, se danno di 1 miliardo, levate la controparte pubblica e vedrete che il privato non sa più a chi andare, con chi andare a trattare la corruzione, la malversazione. Allora, come la penso io, è solo una mia opinione. Sì, è una mia opinione sulla Germania, non è solo la mia, diciamo. Magari fosse solo la mia, è opinione di tutti. Guardo quello che fanno gli Stati Uniti, guardiamo il fatto che l'area euro è l'unica area che si è fermata economicamente rispetto alle altre. Cioè, ci sono anche dei fatti che vanno a supporto delle opinioni. Se l'atteggiamento dell'area euro nei confronti del rigore avesse prodotto un miglioramento della situazione economica dell'area euro, ovviamente avremmo cambiato opinione. Vediamo che come ci siamo avvitati in questi anni, vediamo che l'unica area del mondo che ha la deflazione o rischia deflazione è l'area euro, vediamo la preoccupazione del Fondo Monetario, della Casa Bianca, dell'OCSE, perché praticamente i consumi stanno crollando in buona parte dell'area euro, e poi ci facciamo questa opinione. Ma non è che ci siamo svegliati stamattina e non sapevamo che dire, ci siamo messi a parlare di come ha gestito l'area euro i problemi della crescita in questi 3-4 anni. Allora, in attesa che arrivi il presidente della regione Lombardia Maroni sulla vicenda SEA, ancora due notizie. Una bellissima, perché lui era latitante, rapinava le banche in giro per l'Italia, ma ciò nonostante Domenico Albanese, 47 anni, percepiva ugualmente 832 euro dalla regione Sicilia, perché da anni era inserito in un elenco di precari, a dimostrazione che nonostante i 21.000 dipendenti, quelli assunti, della regione Sicilia, non si riesce a incrociare un cavolo di dato come la latitanza di una persona e il suo diritto ad avere un sussidio di disoccupazione perché precario, cioè nemmeno la fedina penale si riesce a incrociare. Albanese era stato espulso dal bacino degli ex PA in inserimento professionale solo poche ore prima dell'arresto avvenuto a Palermo. Per fortuna va dato atto al governo di Rosario Crocetta che il Dipartimento sta passando al setaccio il lungo elenco di precari del famoso progetto Emergenza Palermo. Sono 2.900 persone che da 15 anni beneficiano di sussidi pubblici. Mi chiedo perché non l'abbiano fatto l'ex governatore lombardo e anche i governatori della Sicilia, quelli precedenti. Tra l'altro la regione ha espulso, grazie all'iniziativa di Crocetta, dal bacino dei precari oltre 200 persone, o perché è stato accertato che avevano un reddito ISEE superiore ai 20.000 euro previsto dalla legge regionale, o perché non avevano i requisiti morali di buona condotta. In alcuni casi, e qui lo dico a Lombardo, a Cuffaro, in alcuni casi percepivano l'assegno mentre erano in carcere, ma ci rendiamo conto di questo? Tu devi avere i requisiti morali, fedina penale, e essere sotto i 20.000 euro. Uno è in carcere, l'assegno viene mandato nonostante tu sia in carcere e nessuno se ne accorge. Lombardo, Cuffaro. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso pubblicità meteo, poi la vicenda l'Italia. Su SEA, i mercati, le eventuali nomine se dovessero arrivare, e invece il BTP Italia lo commenteremo con l'ex ministro Domenico Siniscalco, che attualmente è vicepresidente di Merrill Lynch. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, va bene, alcuni dicono che non rispondo ai messaggi, solo alle critiche. No, rispondo anche alle domande, quelle serie. Poi a chi dice che siamo demagogici populisti, va bene così. Qualcuno mi fa notare giustamente che Frau Merkel era a Pompei e poi adesso dovrebbe essere a Ischia. Sì, allora, sempre per mantenere il doppio binario, si chiede all'Europa pensare e puntare anche alla crescita, non solo al rigore da tecnici ragionieristici, senza nessuna offesa per i ragionieri. Abbiamo sempre detto, noi nel frattempo facciamo i compiti a casa, però, e ha ragione chi dice, il rigore ci deve imporre anche di spendere meno. Mi sembra che questa sia l'intenzione del governo, vedremo se ce la farà. E visto che poi la Merkel è andata a Pompei, speriamo che non abbia visto come non siamo riusciti a utilizzare i soldi e i fondi per rimettere a posto Pompei, cosa capita a tutti gli assunti a Pompei e quant'altro. Ecco perché dico, si fanno i compiti a casa e poi si chiede all'Europa più tempo per studiare e anche qualche incentivo per continuare a studiare e non solo mazzate. Ma sono d'accordo sul doppio binario, così come sono d'accordo con chi mi dice, attenzione, la mala sanità non è solo un caso del sud, non l'ho mai detto. Citavo un eccesso di parti cesarei, la regione Sicilia è quella che ha il record di parti cesarei, ma avete ragione, Brega Massone era assolutamente del nord e Milanese non ne farei una distinzione regionale, anche se sappiamo che la sanità nel centro-nord funziona, ce lo dicono gli indici, meglio che al sud in molti casi, non sempre. La vicenda SEA, o meglio all'Italia Malpensa, che cosa è successo? È successo che dall'accordo annunciato, oggi ci sarebbero dovuti essere sviluppi ma non li abbiamo visti, l'interesse della compagnia degli Emirati Arabi di Abu Dhabi e Etihad a entrare e rilevare il 50% per 500 milioni di euro di Alitalia. Però il piano, secondo le prime indiscrezioni, prevederebbe un rafforzamento di Fiumicino, che diventa l'aeroporto anche per chi vola da Abu Dhabi, di snodo verso il nord e il Sud America. Linate verrebbe rafforzata come hub anche per i voli, in quel caso verso Abu Dhabi, che terrebbe tutta la parte verso l'Asia, Africa, Asia, est del mondo. Malpensa verrebbe utilizzata per la parte cargo, con però un rafforzamento della rotta, o la creazione di una rotta che non esiste ancora, Milano-Shanghai, perché è molto richiesta dalla clientela business. Su questo si è inalberato il presidente della regione Lombardia, che ha detto, se questo è il piano SEA, noi non ci stiamo e non... Malpensa verrebbe danneggiata, se questo piano Etihad, Malpensa verrebbe danneggiata, e la regione a quel punto non è interessata più alla SEA. È arrivata oggi la risposta del sindaco di Milano, azionista di riferimento della SEA, Pisapia. Se Maroni intende sfilarsi dalla SEA non c'è problema, saremo noi come Comune di Milano e insieme alla società a difendere Linate Malpensa, a valorizzare questi due aeroporti. Così appunto il sindaco di Milano Pisapia. La vicenda SEA è forse il dossier più delicato, al di là di del capire esattamente quale sarà il piano con cui Etihad è disponibile a entrare con il 50% in Alitalia. Faccio notare che la SEA, che è la società che gestisce sia Milano Malpensa che Linate, è controllata al 55% dal Comune di Milano, un altro 44% in mano al fondo F2I, che è partecipato da Cassa Depositi e Prestiti e dalle fondazioni bancarie. Poi piccole quote sono possedute anche dalla provincia di Varese, dal comune di Busto Arsizio. E ci ha raggiunto in collegamento il presidente o governatore, come volete dire, della regione Lombardia, Roberto Maroni. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto vorremmo capire, poi mi dà anche una risposta chiaramente al sindaco Pisapia, però lei ha detto a suo tempo: confermo l'interesse della regione a rilevare quota della SEA a condizione che Malpensa non venga distrutta. Finché non si chiarisce questo, la trattativa è sospesa. Ma questo vuol dire che sostanzialmente, se dal piano Etihad dovesse arrivare un diverso utilizzo di Malpensa, voi non siete più disponibili? Ma guardi, innanzitutto la regione non è dentro SEA, quindi io non mi sfilo da nulla perché non siamo proprio azionisti di SEA. Ho dato la mia disponibilità su richiesta a rilevare quote di SEA, in particolare dal Comune di Milano, perché sono interessato a contribuire a realizzare un sistema degli aeroporti lombardo. Visto il piano degli aeroporti che il governo si accinge ad approvare, che vede appunto Malpensa come perno di tutto il nord-ovest, e vista la vicenda Montichiari con il TAR che ha annullato la concessione a Verona, c'è la possibilità, io dico, di realizzare un progetto strategico. Io sono interessato come regione, però se il governo danneggia Malpensa perché con questa operazione rischia addirittura di chiudere, e io non sono interessato a rilevare quote di una società SEA che verrebbe fortemente penalizzata anche sul piano patrimoniale da una scellerata decisione del governo. Non capisco perché devo entrare e prendermi in carico responsabilità e perdite che determina qualcun altro. Non sono interessato. Ecco, ho capito, lei dice insomma: io entro nella società SEA se ha ancora gli attuali asset come valore, se riducete il peso di Malpensa, lei dice addirittura distrutta, adesso arriviamo su questo, non mi interessa più entrare. Però mi faccia, come sempre in questi casi, difendere la controparte, e cioè qui c'è un problema di Alitalia che ha appena avuto un aumento di capitale ma continua a perdere tanto, e bisogna assolutamente trovare un socio per Alitalia, e questo è un elemento di interesse nazionale. Da quello che noi abbiamo visto, fermo restando modifiche, l'Alitalia sotto partecipazione di Etihad, non, più che sacrificare Malpensa, vorrebbe utilizzare per Malpensa soprattutto la parte cargo, mettere anche il volo su Shanghai e ripotenziare Linate. Allora uno potrebbe dire: siccome la SEA controlla sia Malpensa che Linate, magari la partecipazione di Alitalia su Malpensa si ridurrà un po', verrà modificata, però aumenta quella su Linate, quindi l'asset complessivo non viene depauperato, non viene sminuito. No, non è così. Chieda alla SEA, anche loro non sono d'accordo su questa operazione, ma poi non ha molto senso. Se Malpensa, anche nel piano del governo, nel piano è uno dei 10 aeroporti strategici ed è un hub, mi fa un po' sorridere che Alitalia decida che deve diventare un cargo. Malpensa nel 2012 ha avuto quasi 19 milioni di passeggeri, cioè come Linate, Oriol Serio messi assieme. È il primo transito di merci, quasi 500.000 tonnellate di merci, il primo aeroporto d'Italia già per traffico merci. E questa è un'operazione, questa capisco salvare l'Italia, ma per salvare l'Italia bisogna cancellare Malpensa, beh, io dico attenzione governo, perché stai facendo un danno. Ma lei lo ritiene che... Dopodiché non è una mia scelta, naturalmente, io prendo atto, ma dico, io sono interessato a contribuire con il governo, con il Comune di Milano, a realizzare il grande... sistema degli aeroporti aeroportuali della Lombardia, ma non a queste condizioni. Sempre su Malpensa, però in realtà già l'Italia privatizzata ridusse notevolmente il suo peso su Malpensa, e ne parlammo al tempo con il numero uno della SEA Bonomi. La SEA e quindi anche Malpensa optarono per altri vettori, arrivò Emirates, Lufthansa e altri accordi, Cathay Pacific se non ricordo male, e devo dire che a noi era sembrata anche una scelta lungimirante, nel senso che affidarsi alla sola l'Italia, per come versa l'Italia e per quello che è l'alternativa, o che venga assorbita da Air France o diciamo un domani, o che giochi un ruolo diverso con Etihad, è molto rischioso continuare a pensare che all'Italia possa giocare questo ruolo fondamentale per Malpensa. Infatti io non dico che l'Italia giochi un ruolo fondamentale su Malpensa, ma se la condizione per consentire a Etihad di entrare in Alitalia è la liberalizzazione dei voli da Linate, cioè spostare il traffico da Malpensa a Linate, non solo di Alitalia, ma fare di Linate il nuovo hub al posto di Malpensa, beh, lo si dica chiaramente allora che si vuole chiudere Malpensa per fare un piacere a Etihad, perché Etihad preferisce Linate per una serie di motivi. Io voglio dire, è una scelta che spetta al governo, benissimo, prendo atto, però lo si dica chiaramente senza tirare in ballo Expo o cose del genere. È una scelta politica che io non condivido, perché non condivido appunto la decisione che sarebbe quella di penalizzare fortemente Malpensa, non a vantaggio di Linate ma a vantaggio di una compagnia straniera Etihad, e il governo abbia il coraggio di dirlo. Dopodiché ognuno fa le sue scelte, per l'amor di Dio. Io non sono costretto come regione a rilevare quote di SEA, lo faccio perché c'è un progetto. Se questo progetto svanisce, utilizzo i soldi pubblici dei contribuenti per altri fini, per altri e migliori fini. Mi scusi, Presidente Maroni, cosa risponde a chi dice che in realtà lei nota di più un eventuale indebolimento di Malpensa rispetto a un rafforzamento di Linate, pur essendo tutte e due diciamo parti della SEA, perché lei è di Varese, diciamo, e ha una particolare sensibilità per tutto ciò che capita nell'area di Varese, insomma, in quello che è anche da un punto di vista elettorale un collegio importante per lei? Ma non diciamo stupidaggini, per cortesia. Io sono intervenuto, guardi, le faccio solo due esempi. Il primo intervento che ho fatto è stato a favore di un comune, Como, guidato dal centro-sinistra. Un altro, abbiamo dato 30 milioni di euro per ricostruire il ponte di San Benedetto Po, provincia di Mantova, guidata dal centro-sinistra. Io guardo gli interessi della regione, punto, e credo che sia interesse della regione e dei Lombardi avere un sistema aeroportuale che ha come perno Malpensa e non il contrario, che lo chiuda. Tutto qua. Grazie, poi prossimamente parleremo anche con più tempo dell'Expo, perché quelli sono altri temi, ma su cui adesso mi fermo perché mi interessava capire, in attesa che arrivi questo piano, perché oggi doveva esserci l'incontro con i sindacati, ma per ora nulla abbiamo descritto. Grazie intanto al Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Grazie a voi. Di nuovo in diretta alle 17:48 minuti con Sebastiano Barisoni. Allora, partiamo proprio dal caso popolare di Milano. Che cosa è successo nel fine settimana? Molti di voi l'avranno già letto. Comunque, l'Assemblea degli azionisti ha bocciato per pochissimi voti, servivano i due terzi dei voti, il quorum era 2577 voti. Scusatemi, i voti sono stati 2577, di cui 45 astenuti, il quorum era 1689 voti e invece ne hanno ottenuti solo 1565. Che cosa ha bocciato l'Assemblea? La riforma della cosiddetta governance, quindi i meccanismi interni di gestione della Popolare di Milano, in cui ho detto, non è un'accusa, è un dato di fatto, i sindacati pesano moltissimo. La nuova governance chiesta anche dalla Banca d'Italia avrebbe dovuto dare più peso agli investitori istituzionali, pur mantenendo la forma cooperativa, quindi una testa, un voto, non avere oltre un certo livello del capitale e via così. Il voto capitario, come si chiama tra le popolari, le banche di credito cooperativo. Delusione, mi sembra netta, degli investitori, ma chiedo conferma a Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano, hai proprio ragione, la delusione per gli investitori, che non è tanto per i contenuti della riforma della governance che sarebbe stata approntata e sarebbe stata applicata nella popolare di Milano, quanto per l'ennesimo segnale che arriva dall'assemblea dei soci. Quindi gli analisti e gli operatori oggi, commentando l'esito dell'assemblea che tu ricordavi, sottolineavano che il principale impatto negativo è soprattutto di natura reputazionale, proprio in un momento in cui la banca si appresta a fare un'importante ricapitalizzazione che avrà bisogno di investitori istituzionali, investitori esteri, chiaramente un segnale che va nella direzione del negare alcune modifiche a favore degli investitori istituzionali, e questo certamente potrebbe avere dei contraccolpi sul successo dell'aumento di capitale, o quantomeno, diciamo così, almeno per oggi, avere questo effetto negativo, insomma. Allora, tengo a precisare che giustamente gli azionisti votano quello che vogliono, ci mancherebbe, per cui io non sto sposando né un modello né un altro. Noto semplicemente che la gestione della Popolare di Milano è una gestione molto molto complicata per gruppi di interesse interni, magari hanno ragione loro, ci mancherebbe. Immagino che gli azionisti che hanno votato in maniera contraria fossero consapevoli di quello che tu hai appena ricordato, e cioè che se tu stai per fare un aumento di capitale e stai chiedendo i soldi fuori, beh, se dai un messaggio del genere di essere chiusa, diciamo così, arroccata sulle la tua attuale governance, va benissimo, non ti puoi aspettare però che questo generi l'entusiasmo di chi deve mettere i soldi dentro la Popolare di Milano. Insomma, uovo, non posso fare questa battuta perché è volgare, ma insomma, la moglie ubriaca e la botte piena non si riescono ancora a ottenere. Monte dei Paschi, meno 5,30%. Per il Monte dei Paschi invece è più una correzione, ricordiamo che dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 4,3%, il 43%, perdonami, in una giornata abbastanza negativa sostanzialmente per le banche. Sono poche quelle che si sono distinte, nonostante la correzione dello spread, si è distinta sicuramente Banco Popolare, Unicredit e Mediobanca, mentre le altre hanno viaggiato in negativo. Consistenti i volumi sul Monte dei Paschi, perché sono passati di mano oltre il 4% delle azioni ordinarie. Allora, una precisazione: ha ragione chi dice attenzione alla bocciatura arrivata dai soci, non dai dipendenti. È verissimo, infatti mi sono riferito agli azionisti della Popolare di Milano, non ho detto solo che nel passato la governance interna della Popolare di Milano era una governance difficile, c'era un peso, non l'ho criticato, solo dato è un dato di fatto importante dei sindacati. Si chiedeva, la Banca d'Italia ha più volte espresso il suo favore, un cambio della governance, gli azionisti e quindi i soci, non i sindacati, hanno bocciato, meglio, non hanno dato il quorum e quindi hanno bocciato, non si è arrivati al quorum necessario per riformare la governance interna, servivano i 2/3 dei voti. Andiamo avanti invece sulla Popolare Emilia Romagna, anche qui c'è un aumento di capitale su cui sono più le voci che le certezze, va detto. Sì, è qualche giorno che queste voci si stanno rincorrendo. Per la verità i vertici hanno sempre atteso, hanno sempre indicato a una data successiva all'assemblea di aprile il momento in cui prendere una decisione in vista dei test della BCE, ma il mercato sembra dare ormai un po' scontato il fatto che una ricapitalizzazione ci sarà, viene quantificata intorno ai 600-700 milioni, non è presa negativamente dagli analisti, ma questo ha sicuramente contribuito alla correzione del titolo, che insomma nelle ultime sedute ha lasciato sul terreno parecchio della corsa che aveva fatto da inizio anno. Comunque il saldo da inizio anno è sempre più 18% della Popolare dell'Emilia Romagna. Ancora ST Microelectronics, un nuova battuta d'arresto, meno 3%, già l'abbiamo vista nel fine di settimana scorsa, perdere molto, a 6,23 euro. Sì, c'è un'attenzione del mercato e soprattutto un aggiustamento sui titoli del settore dei microprocessori, visto che partirà a metà settimana la stagione, diciamo così, delle trimestrali del comparto, per cui ci sono stati un po' di aggiustamenti di portafoglio, vengono preferite magari altri titoli come Infineon, come la tedesca Infineon, oggi quindi battuta d'arresto su alcuni consigli di case d'affari che consigliano cautela su ST Microelectronics. Ancora i titoli sotto nomina, chiamiamoli così, visto che ce ne occuperemo anche dopo, non so se ce ne occuperemo in maniera definitiva, non so se arriveranno alle 9, adesso la borsa è chiusa, ma potrebbero arrivare alle 6, alle 6 e mezza, alle 7, alle 7 e mezza, alle 8. Allora, titoli sotto nomina, per quello che riguarda Eni più 1,76%, Enel più 1,26%, Terna più 0,90% e invece Finmeccanica meno 2,12%. Qui c'entrano le nomine. Sicuramente per Finmeccanica il mercato teme una mancata riconferma di Pansa, che secondo alcuni operatori costituirebbe un'interruzione in quel percorso di rilancio che Finmeccanica sta facendo negli ultimi mesi e quindi porterebbe a un'incertezza sulle strategie dell'amministratore delegato che andrebbe a sostituire Alessandro Pansa. Per quanto riguarda le altre c'è stato un generale rialzo che forse non è collegabile strettamente alla questione nomine, la migliore è stata Enel Green Power, ha guadagnato il 2,9%, però non ci sono stati movimenti strettamente legati alle nomine per le altre. Finmeccanica è l'unica che ha viaggiato in controtendenza, probabilmente il motivo è questo. Ancora tra i titoli invece, oggi molto bene tutto il settore del lusso, più 5% Tod's, più 3,22% Ferragamo, più 2,50% Campari, più 1,60% Luxottica, più 1,50% Moncler, mi sembra un'indicazione abbastanza univoca. Sì, certamente c'è un po' un riscatto, un ritorno sul lusso, chiaramente i saldi da inizio anno del comparto sono tutti negativi, visto che il lusso aveva vissuto un 2013 ottimo in borsa e oggi appunto i titoli che tu ricordavi hanno viaggiato molto bene. Per quanto riguarda Tod's e Ferragamo, certamente un andamento di settore sono state le migliori, Moncler sono arrivate le indicazioni dalle indiscrezioni, dalla ricostruzione fatta sulle 24 ore nel fine settimana sull'andamento del business che ha sicuramente concentrato l'attenzione sul titolo. Per quanto riguarda Campari invece indiscrezioni d'oltre manica, visto che si parla di un interesse, sì, una Campari in corsa per acquisire un marchio importante, sì, di whisky scozzese, okay, lo riportava Sunday Times. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, concludiamo l'approfondimento di borsa, dicevo con Andrea Fontana, ancora due titoli, Saipem più 2% da un lato e Telecom Italia invece meno 0,50% dopo le voci di una disponibilità del Copto Sawiris a investire in Telecom. Andrea? Sì, scusami, ti avevo perso. Sì, Telecom ha perso lo 0,5%, chiaramente il mercato si è concentrato su queste dichiarazioni, Sawiris dice di essere disponibile a investire tra gli 1 e 2 miliardi di dollari, ma lui non è nuovo a questo interesse all'ingresso di un ingresso in Telecom, tuttavia insomma, il mercato ci ha creduto poco solo inizialmente e poi ha corretto andando un po' nella direzione che ha caratterizzato i titoli tecnologici e delle telecomunicazioni oggi. E l'altro titolo che citavo era Saipem più 2%. Sì, per quanto riguarda Saipem sono arrivate le indicazioni della lista Eni sul rinnovo dei vertici, c'è la conferma dell'amministratore delegato Vergine con l'indicazione dell'avvocato Carbonetti come prossimo presidente, il titolo ha ben reagito, è andato bene un po' tutto il comparto legato al settore petrolifero. Eni lo ricordavamo prima, ma anche Tenaris ha guadagnato l'1,5%. Miglior titolo in assoluto, Movimax più 25% e poi Dime Group più 7,80, Seat pagine gialle più 5,80, Todds appunto, ci troviamo al lusso più 5%, fronte opposto, Banca Popolare dell'Etruria meno 11,60% e poi la Pop Milano, in realtà il peggiore in assoluto è Media Contact meno 67%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore, noi restiamo in tema di partecipata dello Stato e quindi su quello che è successo anche in borsa, per vedere, fermo restando che è arrivato adesso un comunicato del Ministero dell'Economia e Finanze che dice che i nomi arriveranno dopo le 8:30, se c'è qualche informazione in più. Una risposta a un ascoltatore: no, non abbiamo mai detto che vi siano presi di beneficio sulla Popolare di Milano, forse ha perso la prima parte del programma, abbiamo ragionato su quello che è successo nel fine settimana, il fatto che non c'è stato il quorum, i 2/3 dell'assemblea per modificare la governance, non c'entrano niente le prese di beneficio oggi sulla Popolare di Milano, confermo che la Consob ha vietato l'evento allo scoperto. Allora, ripeto, la lista sembra, visto che ci sono i mondiali alle porte, sembra quella di una squadra di calcio. Allora, all'ENI, al posto di Paolo Scaroni, Claudio Descalzi, direttore generale esplorazione ENI. Come presidente, al posto di Giuseppe Recchi, Elisabetta Belloni, direttore generale della Farnesina, o Leonardo Maugeri, docente Harvard, ex importante dirigente dell'ENI, o Giampiero Massololo, direttore generale Dipartimento Informazione e Sicurezza. Anche il nome di Emma Marcegaglia e Paola Severino sono circolati. All'Enel, al posto di Fulvio Conti, come amministratore delegato, Francesco Starace, numero uno di Enel Starace, numero uno di Enel Green Power, e o Andrea Mangoni, amministratore delegato di Sorgenia. Come presidente, al posto di Paolo Colombo, o Patrizia Grieco, numero uno di Olivetti, oppure anche qui il nome di Emma Marcegaglia. Terna, al posto di Flavio Cattaneo, o Matteo Delfante, direttore generale Cassa Depositi e Prestiti, o Aldo Chiarini, Gas de France Italia, o Francesco Caio, ex commissario dell'agenda digitale e Fiat Avio, numero uno di Fiat Avio. Ancora, alla presidenza possibile la riconferma di Luigi Rot, oppure è circolato il nome di Emma Marcegaglia e di Patrizia Grieco. Chiudo con Finmeccanica, al posto del ministro delegato Alessandro Pansa, Mauro Moretti, quindi Ferrovie dello Stato, o Giuseppe Giordo, amministratore delegato di Alenia, o Francesco Caio, anche qui presidente invece dovrebbe essere confermato Gianni De Gennaro. L'unica cosa certa è che non dovrebbero essere confermati né Scaroni né Conti, perché il governo ha fatto sapere che resterà la linea del massimo 3 mandati. Una nota di Palazzo Chigi ha detto che saranno nomi assolutamente, gli italiani saranno assolutamente sorpresi, faremo scelte di discontinuità ma senza disperdere le energie migliori già presenti. Allora, Gianni Dragoni, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, qua insomma ci sono persone come Marcegaglia che vengono candidate a più posti, in altri casi ci sono più persone che posti, e questa è un'abitudine italiana. C'è qualche novità in più? Perché dire che gli italiani saranno sorpresi perché faremo scelte di discontinuità, ma non disperderemo le energie migliori già presenti. Ricordo un po' il Crozza, ma anche, no? Faremo questo, ma anche. Allora, tutto non si riesce a tenere assieme. Se vuoi essere discontinuo, probabilmente devi prendere un nome veramente nuovo, però rischi di disperdere, citando il comunicato di Palazzo Chigi, le energie migliori presenti. Aiutaci giù. Ma certamente ci sono delle difficoltà, il governo è in ritardo nel fare queste nomine, avrebbe dovuto presentarle ieri. Renzi addirittura aveva detto in TV da Enrico Mentana 2 settimane fa, vedrete il 12 faremo la prima tornata e le nomine saranno trasparenti. Il 12 era sabato, adesso c'è questo curioso rinvio alle 20:30 che fa anche pensare quasi che il governo non solo abbia un problema nel definire i nomi, perché credo che ormai questo lo abbia risolto, ma che voglia dare anche meno tempo all'informazione di riflettere, di comunicare. Vabbè, però questo dai meno tempo, però ti dura un giorno, nel senso che ho capito quindi, lo dici tu, se arrivano le 9 i TG principali, sono finiti, 8:30. Però ecco, i giornali sono in chiusura, dopodiché basta aspettare un giorno e le analisi le facciamo uguale. È così, però a volte c'è anche col DEF ha fatto così il governo. Ma c'è qualche indiscrezione sui nomi? No. Perché Descalzi, a me quello che ha fatto impressione è che nel caso dell'ENI, che è il big fish, il pesce grosso, l'unico nome che, mentre in altri casi abbiamo visto altri nomi, che continua a circolare è quello di Descalzi, direttore generale di esplorazione. Non è, però, come amministratore delegato, a parte l'ipotesi si è affacciata di Stefano Cao, che era uno che aveva lo stesso ruolo anni prima di Descalzi, non ne sono circolati altri. Quindi rimane lui il nome principale per la poltrona più importante, come Starace, che è ricordato per la carica di AD dell'Enel. Però ci sono ancora dei dubbi su alcune presidenze, soprattutto presidenti donne, per esempio si è ritirata, cioè ha detto che rimane alla CIR Espresso Monica Mondardini, che è una pedina importante nel passo delle nomine, penso per le poste, per la delle poste, non per la presidenza. Sì. C'è la vicenda Finmeccanica, che è una delle più incerte, tra la vicenda di candidare Moretti, che Renzi vorrebbe mettere, ma apre anche un problema di successione alle ferrovie, dove diciamo Moretti era veramente, diciamo, non aveva vicino a sé, non aveva creato una sorta di numero 2 o numero 3 effettivo, quindi non convince neanche del tutto il Ministero dell'Economia la nomina di Moretti in Finmeccanica, perché diciamo insomma viene da un mondo abbastanza lontano da quelle attività nella e poi Pansa è appena arrivato un anno fa, mentre cioè, con Scaroni e Conti puoi dire che sono oltre il terzo mandato e va bene, ma con Pansa è più difficile. No? C'è anche questo fatto, comunque il criterio del cambiamo tutti l'ha brandito Renzi un po' per giustificare anche il cambio, affermare il cambio delle due posizioni detenute dai manager più potenti anche, cioè l'amministratore delegato attuale dell'Eni Scaroni e quello dell'Enel Conti, per cui se cambia quel principio, se tocca quel principio, poi potrebbe ritornare in discussione anche qualcos'altro in questo puzzle, diciamo piuttosto complicato, certo più complicato di quello che Renzi immaginava. Sì, speriamo non sia diciamo un'abitudine immaginare cose più semplici di quelle che siano, lo dico al Presidente del Consiglio. Gianni, come si dice in questi casi, salutiamoci qui con tanto affetto, nel senso che non abbiamo altri elementi. Hai ragione tu nel dire che già si era capito ieri che dovevano arrivare a mercati chiusi, questo aveva anche un senso, però tra le 17:30 e le 20:30, insomma, è il segno che se non c'è un atteggiamento tattico vuol dire che ci sono dei problemi, delle complicazioni, dei problemi un po' dell'ultima ora. Venerdì scorso 3,5 miliardi di BTP a 3 anni, rendimento al minimo storico dello 0,93%, ancora giovedì scorso il bot a 1 anno, minimo storico allo 0,58%, e oggi è appena arrivata la notizia, richieste per 6,7 miliardi di euro con 110.000 richieste. Oggi il BTP Italia era allargato anche ai retail, ai risparmiatori individuali, tant'è che si pensa che domani il Tesoro chiuderà alle 13 l'offerta, aveva tempo fino a giovedì, ma vista la richiesta la può già chiudere. Ricordo che BTP Italia è indicizzato all'inflazione italiana e ha scadenza al 2020. Professor Domenico Siniscalco, appunto, ex ministro all'economia, ex direttore generale del Tesoro, vicepresidente responsabile per l'Italia di Morgan Stanley, è stato anche ex presidente di Assogestioni. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. La domanda è molto semplice, continuiamo a riproporla. Come mai con una deflazione, non dico alle porte, ma che aleggia come uno spettro in Italia e in altri paesi, una disoccupazione a record che non accenderà a diminuire quest'anno, un PIL che cresce dello 0,6%, che è obiettivamente poca cosa, e un'Europa che non mi sembra avere completamente aver capito che forse bisogna pensare anche alla crescita. Un euro che resta a quota 1,38, tutti vogliono comprarsi il nostro debito? Non mi dica effetto Renzi, però. No, il tema è anzi molto strutturale, non riguarda soltanto il debito pubblico, i bond emessi dal Tesoro, ma anche quelli emessi dal privato, che stanno andando in Italia ugualmente bene, non riguarda soltanto l'Italia, ma tutti i paesi della periferia europea, Spagna, Portogallo, persino la Grecia la settimana scorsa è riuscita a emettere il primo bond dopo la crisi. Quindi c'è una corsa verso questi titoli. Come mai? Perché molti investitori, direi quasi tutti gli investitori internazionali, erano scappati dal debito della periferia italiana, dal debito europeo. Vi ricordate lo spread del 570 contro il Bund? Erano ancora sottopesati, cioè avevano investito relativamente bene in questi titoli, invece è tornata la fiducia, si è capito che l'euro non si rompe, si è capito soprattutto che i tassi resteranno bassi molto a lungo e di conseguenza, se resteranno bassi, i bond, i BTP, i bot e così via riprenderanno ad apprezzarsi. Quindi ottima occasione, opportunità di investimento. Ecco, secondo lei questo atteggiamento degli investitori esteri che poi danno là verrà mantenuto anche dopo un eventuale esito delle elezioni europee, che io ritengo abbastanza probabile, diciamo così, di scetticismo nei confronti di questa Europa, dell'Europa, in alcuni casi anche dell'euro stesso? È difficile dirlo perché i mercati hanno gambe di lepre, no? E si girano molto rapidamente, però se teniamo conto appunto che l'azione della BCE più che altro ha di fatto fugato le paure degli investitori di una rottura dell'area euro, io ritengo che qualsiasi sia l'esito, almeno che sia incredibilmente catastrofico per l'Europa, ma non lo immagino, non dovrebbe alterare questo quadro. Le dico un numero che tutti pensano, una vittoria degli euroscettici sarebbe intorno al 25%, e questo non è tale da cambiare le aspettative degli operatori. Quindi io sono molto più preoccupato, semmai, dei guai geopolitici di cui parlava la sua trasmissione qualche ora fa in Crimea, piuttosto che di quel genere, ma anche lì mi sembra che la tendenza è molto forte. Ecco, pesa di più il rischio, diciamo, di un voto contro l'Europa, mi sembra che lei lo reputi abbastanza remoto come rischio, o un eventuale rallentamento della crescita dei paesi emergenti? Nel senso che molti sostengono che, oltre all'azione di Draghi e la rassicurazione che Draghi ha posto, anche l'ultimo comunicato alla BCE della settimana scorsa, misure non convenzionali, eventualmente anche il quantitative easing, lo stampaggio di moneta, molti fanno notare che con quello che è successo nei paesi emergenti, forse hanno pesato più le difficoltà dei paesi emergenti a spingere gli investitori dei grandi fondi a riposizionarsi sull'euro che non altre vicende. Questo che lei dice è sicuramente vero. C'è stato un deflusso di grandi risorse, investimenti dai paesi emergenti, e i soldi sono tornati verso principalmente l'Europa e principalmente la periferia europea. Mano a mano che questa situazione si confermasse con una flessione degli emergenti, sicuramente da noi le cose continuerebbero ad andare bene. Attenzione poi, purtroppo, che il fatto che il mercato dei bond vada così bene, mentre il mercato azionario ha dei suoi alti e bassi, potrebbe anche indicare che gli operatori credono in uno scenario di stagnazione in cui i tassi restano bassi per un lunghissimo periodo. Perché se tu sei investito in titoli a medio-lungo, dal decennale, quinquennale, decennale in su, quello che temi è l'aumento dei tassi, perché ti fa cadere ovviamente il valore capitale del tuo investimento. Per cui diciamo che questo rally del reddito fisso è compatibile con uno scenario di crescita poco brillante. Allora, dico un ascoltatore, io sono contentissimo che i rendimenti italiani calino, che ci costi così poco avere finanziatori per il nostro debito, non sono contrari. Mi dica un'ultima cosa, però, restando ai temi anche europei, professor Siniscalco, quando lei, se non ricordo male, era direttore generale del Tesoro e ministro dell'economia era Giulio Tremonti, ci fu il famoso sforamento del tetto del 3% di Maastricht da parte della Germania. con quello che è successo negli ultimi due anni, lei si è pentito, diciamo, di che quel governo fosse così comprensivo e condiscendente con la Germania? Ma guardi, allora la Germania si chiamava il grande malato d'Europa. Stiamo parlando del 2003, nel 2001-2002 aveva sfondato, nel novembre 2003 avremmo dovuto, sotto semestre italiano, dare in Europa le sanzioni alla Germania. Ci ricordavamo tutti cosa era successo l'ultima volta che avevamo dato le sanzioni alla Germania nel 1918, non perché fossimo presenti, ma perché ovviamente ne scaturì poi la seconda guerra mondiale. Io non credo in un'Europa delle sanzioni, non credo in un'Europa della durezza, non credo in un'Europa della rigidità. Credo invece in un'Europa di persone che capiscono la realtà, che hanno letto la storia e così via. Questo non è successo negli ultimi mesi. Ma quindi secondo lei adesso è la Germania a dimenticarsi che cosa capitò nel 32 o 28-32, cioè che fu l'eccesso di disoccupazione, non l'inflazione, a far vincere Hitler alle elezioni? Sì, ma ancora più gravemente è la Germania che si è dimenticata quello che è successo soltanto il 23 novembre del 2003, me lo ricordo perché ero presente che fosse il 23 novembre, cioè che c'è stata un'apertura di credito da parte dei padri europei e che c'è stata altresì da parte loro l'uso di questa apertura di credito per fare le riforme, perché fare le riforme costa. Anche le riforme del mercato del lavoro tedesco, che hanno dato tanti risultati, come la riforma Hartz, hanno avuto bisogno di più tempo e di più risorse. Io credo che non ci sia bisogno di andare indietro nella storia, ma che basti guardare quello che è successo, e credo che il segnale che verrà dalle più forti, più deboli, non importa, dalle elezioni europee, indurrà tutti i tedeschi per primi a riflettere. Noi ce l'auguriamo, grazie a Domenico Siniscalco, attualmente vicepresidente e responsabile per l'Italia di Morgan Stanley. Ultimi flash d'agenzia dopo 4 ore di confronto con il ministro Padoan e poi con il Presidente della Repubblica. Sembrerebbe in pole position Emma Marcegaglia alla presidenza dell'ENI e Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'ENI. In Enel ancora lo stallo. In Finmeccanica certa solo la conferma di Gianni De Gennaro alla presidenza. Oh, staremo a vedere, abbiamo fatto le 5:30, adesso sono le 8, arriveranno le 20:30, speriamo non slittino ancora. Per domani potremo commentare i profili e scelte. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.